Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto. Questa puntata, come di consueto, è anche di Riccardo Silvi, il nostro redattore, di Valerio Rocchetti, il nostro regista, e sarà della nostra guida, come ormai consuetudine nel nostro divagare intorno a dei cieli più o meno provvisori. E la nostra guida questa settimana si chiama Sveva Casati Modignani. Benvenuta. Bentrovato. Noi parliamo del 20° libro della signora Casati Modignani. La signora Casati Modignani ha lavorato molto, considerando che il primo è uscito nell'81 e quindi in 28 anni ne ho scritti 20. Sì, ma infatti adesso faremo un piccolo percorso storico dentro le parole dei romanzi della signora, perché l'ultimo romanzo pubblicato per Sperling e Kupfer si intitola Il gioco delle verità ed ha come protagonista Roberta, una giovane libraia in piena crisi esistenziale e coniugale. Avevamo detto prima, signora, dove è la novità? Infatti nessuna novità, anche perché proprio Il gioco delle verità è un romanzo che contempla una normalità che più normale di così si muore. Non accade nulla di eclatante, non ci sono grandi avventure, non ci sono grandi sconvolgimenti, eppure ci sono le avventure, gli sconvolgimenti, i colpi di scena della vita di ognuno di noi vissuta giorno dopo giorno. Perché la vita in sé, anche quando sembra che non accada nulla, in realtà è un pianeta ricchissimo di sorprese. Ogni giorno può accadere di tutto. Quando nasce un nuovo sole può portarci la felicità o la disperazione. Siamo così provvisori. Io avverto profondamente la provvisorietà della nostra esistenza. Siamo dei precari, siamo nati precari. Sì, siamo nati precari, però all'interno di strutture che sono poi magari di tipo culturale, di tipo sociale. Nei suoi libri è noto che l'orizzonte è sempre un intreccio di vicende familiari e sentimentali all'interno dei quali i protagonisti scoprono, agiscono, si stupiscono, fanno stupire. Sì, perché ognuno di noi cerca ogni giorno la felicità. Sì, però abbiamo usato una parola, appunto, famiglia. In 20 libri che deriva semantica ha subito, secondo lei, questa parola? Per esempio, nel suo primo libro, 28 anni fa, dire famiglia era probabilmente già rimandare a un contesto dove c'erano genitori, nonni. Nel suo ultimo libro si parla di compagno della mamma di Roberta. 28 anni fa dire che Roberta aveva una mamma che viveva con un compagno avrebbe comportato come giudizio che la mamma di Roberta era una signora poco raccomandabile. Sì, era una signora di costumi un po' peccaminosi. Un po' peccaminosi. Invece oggi noi lo consideriamo così, comunque un elemento di una famiglia. Comunque. Eppure già 30 anni fa avevamo avuto il femminismo, per dire. Però ci vuole tempo per assimilare nuovi punti di vista, per ribaltare tanti pregiudizi e anche per inventarne dei nuovi. Perché se ci siamo liberati da tante scorie che riguardano soprattutto l'universo femminile e che le donne si portavano appresso da secoli, in compenso ne abbiamo inventate di nuove. Una donna di 30 anni fa, io ricordo per esempio quando ero bambina che a un certo punto mi venne proibito di frequentare un'amica della mamma e neanche la mamma la frequentava più, oppure di nascosto perché la signora si era separata dal marito. Quindi non era bene, non era socialmente accettabile questa situazione. Per fortuna di queste cose ci siamo liberati, poi però ne sono arrivate altre molto più volgari, io credo. Credo che stiamo attraversando un periodo in cui la volgarità regna sovrana. Dei valori che erano sacrosanti come l'onestà, la tranquillità, dire io mi sento la coscienza tranquilla perché ho agito bene, ecco, questi qua sono stati soppiantati dalla furbizia. Chi non è furbo rischia anche di non essere considerato intelligente. E allora là dove si premia la furbizia a scapito, se vogliamo, beh, insomma, della rettitudine. La rettitudine sembra una parola desueta, invece che bella. E in questo senso cambiano, no? I valori e quindi anche i contenuti di una storia. Nella prima storia io raccontavo le vicende di questa giovane signora nata ricca che inseguiva la serenità senza mai trovarla, andando da una parte all'altra dell'oceano, perché era ricca, era viziata e comunque questa serenità non la trovava. Adesso io racconto la ricerca della serenità di una madre di famiglia con un marito che non è neanche il peggiore dei mariti, con due figli pieni di problemi e lei che scopre di essere gonfia di inquietudine. Lei che da ragazza, proprio per contrapporsi alla madre sessantottina, che era stata una mamma che c'era e non c'era, che non si era mai sposata con il suo compagno, e quindi vuole a tutti i costi la famiglia tipo quella del Mulino Bianco, la sogna, la vuole, con questo fotografo, fotoreporter e questi bambini che lei vuole con tutta se stessa, che cresce con amore, poi si ritrova piena di frustrazioni, perché lei è una che si dà con grande generosità al marito, ai figli, alla casa, al lavoro, e poi si accorge che non ha in cambio non riceve nulla se non inquietudini. Sente di non essere una moglie soddisfatta perché il marito, tranquillissimo come sono tanti uomini, alla casa e ai figli ci bada la mia amatissima sposa, quindi si defila, non l'aiuta ad affrontare i problemi. I bambini che avvertono lo scontento della madre e la superficialità del padre sono in un'età un po' difficile e quindi manifestano il loro disagio con le asinate di tanti giovani. E per lei però, che ha sempre guardato con occhio critico la madre sessantottina, che ha voluto il matrimonio immaginandoselo a modo suo, è arrivato il momento della resa dei conti, cioè capisce che deve scompigliare queste carte e cercare di risolvere quello che ha dentro di sé. Che poi in realtà il gioco è semplicemente aver sostituito una serie di ruoli con altri ruoli. Diciamo così che nel sistema dei ruoli magari quello di prima era garantito appunto dalla famiglia, dalla tradizione, dal contesto più o meno culturale, per cui si poteva essere padre e madre in un certo modo a Milano, lo si era differentemente in Sicilia, però nel tessuto, diciamo così, in cui si interagiva era il ruolo maschile, il ruolo femminile. Maschio a fare il servizio militare, va alla guerra, la donna protegge le retrovie, si tesse la tela, ancora 50 anni fa, insomma. Era. Poi dopo, diciamo così, questi ruoli sono stati scardinati, poi c'è una specie di... Mentre nella prima parte si sapeva che quei ruoli erano l'elaborazione di processi lunghi, che poi ad un certo punto si sono stratificati tanto da diventare mummificati o... Poi miracolosamente, boom, questi ruoli sono morti. E mi ricordo, diciamo, una frase di Cesare Luporini, che quando morì neanche l'Unità fu tanto svelta da commemorarlo, però è stato il grande commentatore delle opere di Marx e di Gramsci per le edizioni riunite, insomma. Luporini diceva in modo che anche quando avviene un cambiamento di questo genere, alla fin fine si diventa sempre conformisti di un qualche conformismo. Cioè ad un certo punto abbiamo trovato il conformismo, dobbiamo stare bene, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo essere politicamente corretti, dobbiamo uscire dai pregiudizi, ma questi non sono altri pregiudizi, altri ruoli, altre gabbie? No, mi sembrano in un certo senso una liberazione, perché vivere dentro gli schemi da una parte ti dà sicurezza, cioè ti hanno costruito dei paletti, tu viaggi per questo percorso che ti è stato dato e quindi incertezze non ne hai, casomai qualche costrizione, però segui le regole, no? Liberarsi di questi paletti quando non ce ne sono altri già pronti per essere sostituiti ai precedenti diventa difficile. Io ricordo una frase che non so più di chi fosse, ma che mi piaceva molto, e diceva nessuno, non facciamo mai quello che vogliamo, però siamo sempre responsabili di quello che siamo. Allora, dentro questo percorso, questi schemi che ti sono stati dati, forse non fai esattamente quello che vorresti fare. E tuttavia, se poi alla fine del percorso la strada è andata storta, la colpa è comunque tua. E mi piace questo responsabilizzarci, che non è un conculcarci, un costringerci entro qualcosa, ma è trovare la possibilità di esprimerci dentro uno schema precostituito, che è quello che funziona, che è quello delle regole. Non esiste una vita serena senza le regole. Con Sveva Casati Modignani stiamo parlando di Roberta, la protagonista del suo 20° romanzo, Il gioco delle verità, pubblicato da Sperling & Kupfer. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Sveva Casati Modignani, la nostra guida questa settimana, autrice di Il gioco delle verità, Sperling & Kupfer, il suo 20° romanzo. Roberta è una giovane libraia in piena crisi esistenziale e coniugale. Abbiamo scoperto che, diciamo così, apparteniamo tutti allo stesso club, a due figli e un marito. Poi, diciamo, nel percorso doloroso con cui Roberta riprende consapevolezza dei motivi della sua, diciamo così, insoddisfazione, entra in gioco la famiglia e entra in gioco il ruolo della madre femminista convinta del 68, entra in gioco tutta una serie di conflitti irrisolti, segreti più o meno scabrosi, entra, diciamo, in gioco quello che è il nostro vivere quotidiano, dove senza introspezione non arriviamo da nessuna parte, o senza analisi ci fermiamo laddove siamo. È vero che è importante guardarsi dentro? È che non abbiamo perso l'abitudine di guardarci dentro, piuttosto guardiamo fuori, e se siamo soli non cerchiamo mai il silenzio. Io stessa mi accorgo che arrivando in casa automaticamente la prima cosa che faccio è accendere la radio per sentire. In realtà poi mi accorgo che avrei invece bisogno di ascoltare me stessa, ma riesco ad ascoltarmi solo nel silenzio, e però il silenzio ci fa paura, perché rischia poi di metterci di fronte a noi stessi. Quanti mostri abbiamo in noi che forse non vogliamo ascoltare, che ci danno fastidio, che vorremmo ricacciare via, ma non possiamo eliminarli se prima non li affrontiamo e non li conosciamo. Beh, quella bella frase di Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, come fai tu, Aedo, a non far uscire i demoni che sono in te, ecco, per farli diventare angeli danzanti? Qualche volta riescono ad esserlo, no? Sì, naturalmente io non credo che il silenzio sia il vuoto. Eh no. E poi, diciamo sì, essendo cattolico praticante, credo che sia il luogo in cui poi si manifesta la pienezza della voce che Dio ha messo nella coscienza di ogni uomo. Per cui quello che sembra essere, con Giovanni della Croce, quel fenomeno terribile dell'autosvuotamento, diventa poi il percorso per arricchirsi tutto ciò che dall'altro in assoluto ci viene. Però ci sono tutte queste voci, queste ombre che rientrano, stiamo parlando di Roberta come un paradigma, che rientrano dentro, che sono già dentro se stessi, che devono essere per forza portati alla luce per trasformarli in angeli danzanti, sì, e poi in fanciulli danzanti, e poi farli rientrare in se stessi per orientarsi verso che cosa, però? Perché una che è anche madre e anche sposa, anche moglie, può anche stare bene con se stessa, ma in realtà poi i ruoli gli sono comunque appiccicati addosso, come sì, si dice. Perché lei, come tutti noi, ha dei doveri verso gli altri. Non ce l'hai mica solo verso te stesso il dovere, ce l'hai anche verso gli altri, la responsabilità. E dunque, se tu non ti guardi dentro e questi mostri che ti porti addosso, queste ombre, non sempre magari sono mostri, ma sono ombre, sono inquietudini, se non le affronti e non le conosci, questi continueranno a farti paura. Invece quando queste ombre si illuminano, vedi che non sono poi così mostruose. Questo discrimine del 68 come frontiera importante per quella stagione, che poi quelli che hanno una certa età ricordano, io personalmente la ricordo con infinito piacere, la stagione in cui incominciamo tutti, in tutto il mondo, a dire i diritti devono essere per tutti. Quando però li riportiamo solo all'interno di quelli che sono diritti individuali e soggettivi, dimenticando che però il 68 è stato anche il momento in cui il mondo è diventato giovane, perché tra il 58 e il 68 il mondo, che era composto di 42 nazioni, si ritrovò ad essere di 168 nazioni, adesso ne sono 186 all'ONU. Quando il mondo riassunse dentro spazi dove questo era negato da secoli, lo spazio dell'identità culturale, lo spazio della libertà religiosa, in India, in Asia, in Africa, in tante altre parti. Questo riportare il tutto verso questa soggettivazione dei diritti, dimenticandoci che però in quella stagione c'è stata anche una estrema apertura, addirittura anche per realtà che neanche conoscevamo, perché ancora non esisteva il turismo di massa. Non è forse un po' ridurre la portata di questo evento, chiudere un po' la porta di questa frontiera? Del 68? Sì. No, semmai questa porta andrebbe forse spalancata ancora di più, o bisognerebbe ricordare agli altri che questa porta è stata aperta, perché poi nel frattempo se ne sono dimenticati, e se ne sono dimenticate soprattutto le donne, che avendo preso coscienza di sé e delle tantissime doti che le donne hanno in più degli uomini, sono tornate ad essere oggetto del desiderio da parte dell'uomo, invece che belle teste pensanti. E in questo senso le dicevo all'inizio che mi sembra che la volgarità stia dilagando ovunque, e di nuovo i media ci propongono immagini della donna che non le assomigliano per niente, perché noi donne siamo altro. E però il mondo è sempre stato, da sempre, molto maschilista, per cui ti ritrovi in un momento attuale in cui vengono proposti, per esempio, personaggi che fanno le veline per andare al Parlamento europeo. Allora, sicuramente queste giovani e bellissime ragazze sono intelligenti, ma pensi, hanno davvero la preparazione, l'esperienza per affrontare un impegno così? Non è una barzelletta, si tratta di tutti noi e io francamente non me la sentirei. Non so che cosa lei ne pensa, ma queste cose a noi donne... Io penso che il grande problema sociale, la grande ingiustizia sociale attualmente consista nel fatto che le classi più avanzate hanno molto, avanzate d'età, cioè gli anziani hanno molto come tutele e i giovani sono assolutamente privi di tutele. E che ormai da più di 20 anni nessuna grande agenzia culturale di questo paese si è più assunto il compito di educare i giovani, giocando tutto sul paradigma della comunicazione e dell'intrattenimento. Per cui se 2 e 2 fanno 4, se quella è l'agenzia in cui si è formato il paradigma di ragazze che vanno tranquillamente in televisione per 100 giorni a parlare del perché si sono rifatte le tette della sesta misura in vista dell'exploit, dove si mette in parallelo la casa del Grande Fratello con la casa dello studente dell'Aquila negli stessi giorni, sì. Quindi la vera lotta per la vita con le finte schermaglie per vincere un premio di denaro, se quello è il paradigma educativo che le nostre generazioni disimpegnandosi hanno accettato per i giovani, dopo questo c'è anche il Parlamento europeo, c'è anche il Parlamento nazionale perché ci sono già arrivati. Ma lei dice hanno accettato le nostre generazioni per i giovani. Fino a che punto l'hanno accettato e fino a che punto lo hanno subito? Perché se noi ci ricordiamo, 20 anni fa nasceva, 20-30 anni fa, la televisione commerciale. E da lì è rispuntato il fenomeno di cui stiamo parlando adesso. Sveva Casati Modignani, la nostra guida con Il gioco delle verità, il suo 20° romanzo per Spelling e Küffer. Abbiamo parlato di sentimenti, quelli che sopravvivono alle forme e agli incidenti e quelli che costituiscono ancora parole antiche come la felicità, lo star bene, sentirsi in pace con se stessi e con il prossimo. Grazie signora. Grazie a lei. Grazie a voi che ci seguite, grazie a Riccardo Silvia, a Valerio Rocchetti, a risentirci.